703 soufflé di cioccolata, zucchero grammi 120, farina di patate grammi 80, cioccolata grammi 80, burro grammi 30, latte deciliti 4, uova numero 3, rum una cucchiaiata. Mettete il burro al fuoco e quando sciolto versate la cioccolata grattata. Liquefatta che sia anche questa, versate la farina di patate e poi il latte caldo a poco per volta e rimestando sempre con forza aggiungete lo zucchero. Immedesimato che sia il composto e cotta la farina, lasciatelo ghiacciare. Per ultimo aggiungete il rum e le uova, prima i rossi, poi le chiare montate, e se queste fossero più di tre, il dolce verrebbe anche meglio. Ungete di burro un vassoio che regga il fuoco, versateci il composto, ponetelo nel forno da campagna o semplicemente sopra un fornello tra due fuochi e quando sarà rigonfiato servitelo caldo. È una dose sufficiente per 6 persone.